titolo è L'Adese. L'Adese nasce italian da una mare todesca a Passo Resia e si distacca dalla tetta di Giasso e scappa a salti, a sbrufi, Discolo, Garibaldin, Nogherosta che tegna, da Val Venosta, Freda Maregna e il Vienzò a Rebaltoni. A Maran il safato Iossi, e vol scarparlo, imbragarlo, niente. Descalzo il core, selvadego, coloccio verde griso, con una canta amata tra i denti. Ai monti gheride le creste, tutte rosse dal ridarie. A Bolzan l'è un giovinotto, vestì de pomari e de vegne, con l'ultima resina nel fià. A Trento el va soldà, la caserma l'è sul monte, griso, insulso, pelado. Ie scarponi le scomode rive, ie stelete le stelle del ciel. I sogni dei vintani i se impissa, i se indrissa, i va in oca, i se perde drio il canto verde de naracola, un grill. Ala, peri, dolce, la naia la finisse, l'Adese sliga il sangue, a Ceraín esbrega la divisa, e spua una parolassa contro il forte de Rivoli Tognin, e il che volta la schiena e sbatte via l'ultimo ciodo della crucaria. E il secava i scarponi, e il core insata e respira, e il se destira, e il se veste de persegari, l'è mauro, l'è morbinoso, il che voglia de sposarse. Pescantina, parona, i vol fermarlo al ceo, e il baruffa con la diga, e il sbordela, e il vince e il passa. Ecco Verona, sotto brasso de Ponte Castelvecchio, l'è tutta bella, tutta ciara e calda. L'Adese l'è immamado, l'è in confusion, l'è timido, e il se petena, il se lustra, e il se veste di muraioni, e il se mette in testa i ponti, e il canta di tutta vena. Adesso il se scadena, il ciapa fia, e la basa, con la esse la brinca tutta, con la esse e la ciama sposa. In eterno, sbroca tutte le campane. Non orengo il se dismissia, il starnuda, e il se incocona, e il discorre come un sindaco, e il se torna a indormensar. Castel Piero l'è un altar, fiori bianchi e i cocai, i gai in becco un sì bramoso. In eterno, le campane no gà più vosse, le va in letto a una. Ponte nave, dogana, al Camposanto l'Adese capisse. Addio Verona, l'angelo dalla tromba e il saluda con una sonada ingiassada, dura, garba, fatta de lagrime e de piera. L'Adese se despera, e il cammina come in obito, e il gà l'anima de un vedovo, e il se smorsa, e il se trascura, e il se spoglia de muraioni, e il se lascia la barba longa, e il tase tutto, e il vol morir. Al ponte della ferrovia, e il strucca i denti, e il scantona, e il vol dismentegar Verona, e il vol tornar balengo desbriado, e che la vita torni a sventolar. E il cammina de onda, e arriva al porto, e il butta l'occio all'ultima montagna. A San Michele e sfodra la campagna, bocche de Sorio, Zevio. Ecco la bassa scavada nel luame, rassegnata, descalza, dai giorni imbriaghi de sol, dalle notti in man alle rane. L'Adese il se impisola, e il mete pansa, e il ronfa. Nasce sogni pitocchi, cuciadi, stofegadi. Ronco al bareto, eccolo che il se sveglia, l'è rabbioso, l'è dispettoso, il cammina a Bisaboa. A Legnago l'è cattivo, il fadano, il se ribela. L'occio netto e che si intorbola, non dorme più, non ride più. Che qua la terra polesana, che l'è in mare, straca de fiolar. Agra, monta, grendena. La se spalanca abadia con aragosa e dura poesia. L'adase ormai l'è sordo, e il coa il suo morir come i veci. L'è un vecio, la fumara che fa bianca la barba. Al campanil de cavarzere, el sente il mar nel naso. El sospira, el capisce, el lascia un testamento. Le me acque alla gente veneta, a Verona l'anima mia. Desso l'è in agonia. El anca, el setaca alla terra, e spalanca la bocca come per saludar. Ormai l'è quasi mar. Ecco, adesso l'è mar. Grazie per la poesia, perché so se vi è piaciuta. Ecco, io ritengo che era una, così, un completamento al libro, ecco, in quanto riassume proprio tutta la vita del fiume. Passiamo allora. Abbiamo fatto una selezione delle foto che sono presenti nel libro. Qui, in una tratta da una vecchia cartolina degli anni 30, sono i ghiacciai dell'Alta Val Venosta, da cui scendono le prime acque dell'Adige. Sono circa 80 i ghiacciai dell'Alta Val Venosta. Ecco. La sorgente dell'Adige, penso che l'abbiate vista ancora, no? Ecco, la sorgente dell'Adige, questo monumento così semplice ma simpatico. Anche questa, sì, è una cartolina che abbiamo trovato in un mercatino degli anni 30, il villaggio di Resia come era a quel tempo, con le montagne dell'Ortles che si specchiano nel lago. Ecco, io quando sono arrivata qui sono rimasta veramente colpita e non riuscivo a capire bene che cosa fosse successo, per cui sono andata in quella bacheca che c'è e quel plastico, no? E sono andata a leggermi tutto quanto, quindi ho capito, poi confrontando un almanacco scritto nel 1913 che parlava di tre laghi, ho capito che qui erano due e quindi il vecchio paese di Curon Vecchia era scomparso ed è rimasto questo bel campanile romanico in mezzo al lago. C'è anche un poeta, Sapmal, che canta le memorie di questo paese. Ah sì? Sì, sì, ha pubblicato anche recentemente una. Ah, interessante. Ecco, a sinistra c'è il piccolo corso dell'Adige e si vedono poi in alto l'abbazia di Monte Maria e il castello del Principe, che qui li vediamo ingranditi, e la posizione anche di questa abbazia è veramente interessante, molto bella. Eccola qui. Legata al vescovo di Coira, perché la nascita ha avuto a che fare, è nata dai contrasti proprio del vescovo di Coira con i conti del Tirolo, i Mats, i Trapp e tutta una storia lì, loro che hanno portato la lingua tedesca poi in un luogo dove si parlava esclusivamente il ladino. Ecco, a Malles, uno dei paesi più antichi della valle, dove è ben visibile un tratto di strada romana. Qui abbiamo messo questa torre medievale e una torre romanica che spunta da dietro. Un paese interessante, rimasto ancora genuino, l'odore delle stalle ancora, è così molto caratteristico. Ecco, Glorenza, di cui vi parlavo prima. L'interno di quella è la torre Malles, se mi pare che sia, l'interno del palazzo Trapp, di uno dei tanti, presumo, e i portici di questa città che era stata salvata per volere dell'imperatore Massimiliano I e che aveva tratto grande prosperità dal commercio del sale, in quanto Venezia non poteva portare il sale in Lombardia per i contrasti che c'erano con i Visconti, e per cui Mainardo II aveva concesso a Lorenza il privilegio di portare il sale dalle saline di Hall, si dice, fino alla Lombardia, quindi il traffico del sale di questa città che aveva decretato la sua fortuna. Ecco, Castel Coira, i due, bellissima la posizione, i due stemmi, la famiglia Trapp, la famosa armeria, la sartoria su misura, in quanto si facevano confezionare le loro armature su misura, e fra queste ne spicca una particolarmente imponente delle altre. E dopo aver visto casualmente il conte Trapp, ho capito che anche fra gli antenati ci deve essere stato qualcuno di alta statura. E da una delle finestre del castello, questo è il panorama che si vede, le cime innevate, poi le pendici boscose e le coltivazioni proprio fin sotto il castello. Molto bello. Ecco, di Merano abbiamo messo l'imperatrice Sissi, che amava moltissimo venire a Merano per il clima, per la bellezza del luogo, per le passeggiate che poteva fare. Ecco, una principessa malinconica, come si vede anche da qui, almeno io l'ho interpretata così. No, torno indietro, ecco. Da Merano, poi lungo il Passirio, in una bellissima passeggiata in mezzo alle colline, si arriva per un sentiero a Castel Tirolo. E qui abbiamo messo anche il simbolo dell'aquila tirolese, e sul portale della cappella, che si vede all'interno del castello, c'è la più antica rappresentazione dell'aquila imperiale. Qui in alto a destra si vede il castello che poggia su una morena, infatti questa è una morena di un ghiacciaio che sembra quasi un tappeto di viti stese ai piedi del castello stesso. A fianco ci sono delle formazioni rocciose molto caratteristiche, ma non uniche, perché ce ne sono tante in giro. C'è queste rocce che sono state plasmate dagli agenti atmosferici, poi sopra è rimasto il cappello di una roccia più dura, e sono tutti intorno al castello, che è interessante vedere anche questo dal punto di vista geologico. Di questo abbiamo messo per far vedere il cambiamento del paesaggio, della natura, questa piattaforma porfirica, queste rocce verticali che circondano la città di Bolzano e che sono molto, molto estese e che danno un aspetto particolare alla zona, anche di severità al paesaggio stesso. Questa la conoscete per bene, ecco, Talvera e Isarco, che vanno nell'Adige, che portano le loro acque e che permettono quindi a Bronzolo di far diventare navigabile l'Adige. Io conoscevo Bolzano, che so, per i mercatini di Natale, come viene in qualsiasi turista, si fa la passeggiata e poi torno a casa. In questa occasione io ho avuto modo intanto di parlare con molte persone, di visitare per bene il magistrato mercantile, dove ho trovato una signora che mi ha fatto, è stata veramente di una gentilezza unica, con tanta pazienza, che mi ha mostrato, insegnato un sacco di cose, che sono stata molto contenta di averlo visto. E poi la profondità di questi portici, per esempio entrare in certi negozi, Benetton, tanto per citarne uno conoscete benissimo, andare sotto, anche sotto a certi ristoranti, andare a vedere le profondità di questi che erano i magazzini di queste merci che avevano fatto Florida, Bolzano nel Medioevo, le rogge che scorrevano per la città e che pulivano le strade dopo i 15 giorni, per 4 volte all'anno, 15 giorni in cui c'erano tante persone, gli animali, eccetera. Ecco, qui abbiamo voluto fare una composizione di 2 foto, quella a sinistra è Claudia dei Medici e poi questo geranio, che l'anno scorso era stato creato una varietà di geranio che in suo onore, evidentemente questa arciduchessa è stata anche amata dalla popolazione e le hanno dedicato un geranio. Ed è a questa arciduchessa che si deve la terza nascita della città di Bolzano, in quanto voi sapete che la prima è quella romana, no? La seconda è quella della prima istituzione delle fiere con Mainardo II e poi con il Tirolo, e poi era decaduta in quanto, per esempio, Sigismondo non aveva forse intuito l'importanza delle fiere e della prosperità che portava alla zona e non solo alla città di Bolzano, e l'aveva lasciata andare finché non è arrivata lei, che nel 1635 ha creato il magistrato mercantile, dando un nuovo impulso alle fiere e alla città di Bolzano, e quindi a lei si deve la terza nascita della città. Ecco lo stemma, ho voluto mettere questo perché si vedono un'imbarcazione e poi le botti. L'imbarcazione appunto per la navigazione sull'Adige e le botti ove venivano conservate le merci liquide o quelle più delicate che magari si cadevano in acqua, potevano rovinarsi come succedeva spesso che cadevano in acqua, perché navigare sull'Adige non era certo facile. Beh, questa io l'ho messa perché mi piace questa piazza, per le pendici boscose che si vedono da dietro, le case, e poi per la decorazione, per gli affreschi di queste case che sono molto gentili, vorrei dire, molto belle. Ecco, vedete com'è cambiato il paesaggio, ci stiamo dirigendo, la valle si sta allargando e non mancano i vigneti. Sostengono che i detriti morenici lasciati dal ghiacciaio dell'Adige abbia reso fertile proprio per le viti queste zone, e quindi qui ne abbiamo delle zone incredibili con delle geometrie. Ecco il canyon del Rio Nero di cui vi parlavo prima, che è una scuola di geologia all'aperto, e qui solamente 70, dico solamente fra virgolette, 70 milioni di anni fa questa zona è stata sospinta dall'equatore ed è stata portata fino alla nostra latitudine. Sono rocce, affiorano rocce molto vecchie, fino a 270 milioni di anni fa. È molto semplice arrivare a questo canyon, è stato attrezzato con scale, con corrimano, ci sono molte schede didattiche, si può percorrere il fondo, arrivare fino alla cascata, quindi diventa una passeggiata molto interessante, anche molto, molto istruttiva e bella anche nella natura. Ecco, era il palio delle zattere a Bronzolo, appunto, che andava fino a Sacco, come si vede, Rovereto Sacco. E questi due che si vedono davanti sono due zattieri della provincia di Belluno, di Codissago, che sono stati chiamati in aiuto per confezionare questa zattera, in quanto loro hanno una lunga tradizione alle spalle nell'allestire le zattere, sul Piave, quando appunto veniva, c'era la fluidazione del legname, e poi veniva con le zattere, veniva portato fino a Venezia. E quindi solo loro hanno una grandissima abilità nel fare i nodi con il nocciolo, con questi rami molto sottili di nocciolo. E adesso naturalmente erano ben attrezzati, però hanno remato per 2 giorni per arrivare a Rovereto, e quindi hanno ricordato un po' la navigazione che veniva fatta sul fiume. Ecco, sono 2 immagini di Egna, anche qui, come tutte le città che avevano città mercantili come Merano, come Bolzano, anche questi portici molto larghi, necessari per, come Lorenza anche del resto, necessari per tenere le merci all'asciutto, e le abitazioni erano al primo piano. E è stata una cittadina sapientemente ristrutturata, e che mi è piaciuta moltissimo, anche la via dei portici, la via Hofer, con le decorazioni, con gli stucchi, con questi erker, molto interessante. E anche Egna nel passato, nel periodo medievale, si era arricchita notevolmente con la navigazione, con i privilegi che aveva ottenuto dall'imperatore. Naturalmente avere il diritto di navigazione voleva dire avere il commercio in mano, voleva dire portare a casa soldi per i dazi e per le merci in transito. Il Castel Salorno, uno dei tanti, anche qui abbiamo fatto una scelta perché erano tantissimi e tutti belli, ma questo è particolarmente significativo perché è la roccia stessa che è una continuazione della roccia. Attualmente questo è privato, di proprietà privata, e vengono tenuti impegni, conferenze, e sorge, bisogna proprio guardare in alto dalla strada per vederlo, e sorge su un punto strategico di uno dei tanti castellieri di origine eretica che erano stati posti sul fiume e che poi sono stati sfruttati dai romani e poi in epoca medievale. Questo è Trento, 2 immagini, a sinistra un po' un panorama, il Duomo con quella cupola rotonda che i trentini dicono il Ravanel del Dom, questo me l'ha detto la mia amica, e poi anche qui la piazza, il salotto dei trentini con queste belle case affrescate. E anche questa città che ha avuto un passato storico per la presenza dei principi vescovi che hanno fatto di questa città veramente una città ricca di arte, di storia, molto interessante. Castel Pietra, qui siamo un po' più giù, è un castello privato. Il proprietario ci ha accolto, ci ha fatto entrare, ci ha fatto visitare con grande piacere tutto il suo castello. Quelle che si vedono su questa parete sono ancora delle palle da cannone di epoca napoleonica incastonate lì, quelle in pietra sono ancora di epoca veneziana invece, e dentro c'è letteralmente di tutto, anche dei carri napoleonici. Pur essendo nato come fortezza militare, ancora del secolo XI, poi si è ingrandito man mano attraverso i secoli, e casualmente intorno agli anni 25-27 sono venuti alla luce nella Sala Grande degli affreschi magnifici. Quindi abbiamo messo uno che è l'uomo in gabbia e la gazza fuori, questa dama con i 2 gatti, ci sono degli affreschi bellissimi, anche quelli dell'orso che balla, i suonatori di liuto sono veramente interessanti. Da una delle finestre del castello si vede quell'ansa coltivata adesso a vigneti, e quella corrisponde ad un'antica ansa del fiume Adige che ancora nel secolo XVI è stato spostato, perché altrimenti veniva ad allagare proprio le terre sotto il castello. e qui vicino si è combattuta una guerra famosissima fra gli Asburgo e Venezia, con la morte del... Ecco, le Filande di Rovereto. Ecco, anche Rovereto l'ho inserito perché, pur non essendo proprio sul fiume Adige, però attraverso l'affluente, il Leno, che si poi si getta nell'Adige, ha utilizzato il fiume per le tele, che venivano, la lana, i tessuti che venivano da Verona, dalle Filande, che poi qui venivano lavorate, appunto, le città delle Filande, e che Venezia ha detto che l'hanno riempita, appunto, di Filande per la filatura della seta e di altre tele. Ecco, abbiamo inserito questa non tanto perché ricorda qualche verso della Divina Commedia, ma quanto per indicare come la valle, questa la Valle Agarina, si trova sulla sinistra orografica ed è una zona dove facilmente si sono verificate in passato frane, perché i geologi dicono che è di franappoggio, cioè gli strati delle rocce che sono così messe, che scivolano uno sopra l'altro, quindi le frane sono molto frequenti. Naturalmente questa pare sia questa, anche se qualcun altro si vuole attribuire che la frana invece è quella di Dante, è da un'altra parte, perché ognuno vuole averla per sé. Ecco, pare che questa abbia ispirato a Dante la discesa al settimo cerchio dell'inferno. Ecco, mentre la parte destra della Valle Agarina è invece a reggi poggio, in quanto uno strato è sopra l'altro e quindi è più severa, però è anche più stabile. L'unico santuario, il santuario di Spiazzi, che c'è lungo il corso del fiume, ed è letteralmente proprio inserito proprio dentro la roccia del Monte Baldo. Si può salire per 1100 gradini, mi pare che siano, oppure per una comoda strada, si chiama della Corona, non ha niente a che vedere con la Corona, ma si intende una sporgenza della montagna, una sporgenza della Rupe per Corona. Evidentemente sì. Ecco, la famosa chiusa, anche qui Ottone Brentari dice che è un baratro geologico, e qui era una valle scavata dal ghiacciaio dell'Adige quando passava da queste parti. Ecco, dicono i geologi, hanno stimato che lo spessore del ghiacciaio dell'Adige fosse su Trento di circa 1,5 chilometri di spessore, in epoca quaternaria ovviamente. Il ghiacciaio ha scavato e poi pare che ci siano stati anche i principi vescovi che per sanare un po' le terre intorno hanno scavato con dell'esplosivo questa chiusa, in modo da far scorrere più velocemente le acque ed impedire anche questo è un fotomontaggio. Qui siamo a Rivoli, abbiamo pescato questo signore, siccome stavano facendo la rievocazione della battaglia napoleonica, quella famosa della prima campagna in Italia, appunto, di Napoleone, e allora l'abbiamo messo qui a ricordare questa battaglia, questo monumento che era stato innalzato per la prima volta dai francesi dopo questa battaglia, però distrutto dagli austriaci successivamente, e poi dopo la prima guerra mondiale rifatto di nuovo dai francesi così come si presenta adesso. Ecco, la Rue de Rivoli a Parigi ricorda questo luogo.